molto da dare. C'è chi ruba l'aeroplano e non ha i soldi per il Luna Park. C'è chi fabbrica le bombe e le rivende per la libertà. Una vita più serena, una moglie tutta nera, un amante più fedele, un uomo per amico. I soldi a fine mese per festeggiare, vai dal cinese. I viaggi organizzati senza i parenti, paralizzati. Sei plurilaureato, tutto solo e divorziato. Sei un uomo di successo, soprattutto sopraccesso, sopraccesso, sopraccesso. C'è chi ruba l'aeroplano e non ha i soldi per il Luna Park. Bra-bra-ra-ra-ra. C'è chi fabbrica le bombe e le rivende per la libertà. Il Medio Oriente, il muro nel giardino, un kamikaze come vicino, la pace americana, Madre Teresa, Lady Diana, la fame, l'AIDS, il WTO e l'interesse, SOS, SOS. C'è chi ruba l'aeroplano e non ha i soldi per il Luna Park. Entriamo proprio a bomba nell'argomento, però prima il pezzo era, il nostro DJ ha deciso di mettere un brano che diciamo sancisce, definisce l'anima di questa consesso che sta parlando in questo momento. Diciamo che siamo gli unici due forse a Cosenza che ancora ricordano i Frankie Head, che era un gruppo che ha fatto Sanremo nel 2008 con pessimi proprio risultati. 2008-2007, non lo ricordo. Ciao ciao ciao ciao ciao ciripipararà. E con un sottofondo molto pregiato andiamo a parlare della questione dei test. Diciamo, facciamo prima una panoramica. Che ne pensi? Facciamo una panoramica? Facciamo questa panoramica. Praticamente da quest'anno, grazie alla carrozza, noi abbiamo visto l'anticipazione dei test d'ingresso per le facoltà di medicina, odontoiatria e professioni sanitarie ad aprile, per cui tutto questo comporta una serie di disagi per gli studenti che vanno ad aggiungersi ai problemi già esistenti. Innanzitutto questo numero chiuso, che diventa sempre più chiuso perché sono stati ridotti di un quarto i posti nelle facoltà sopradette. Che sono state anticipate ad aprile, l'hai detto, perché sei una persona esperta, che c'è tutta questa riduzione di posti, l'hai detto. E quello che abbiamo pensato era far uscire nella marasma generale l'impressione degli studenti da questo punto di vista. Quindi abbiamo da un po' di tempo già solidarizzato, diciamo solidificato pure tutto con la S e il rapporto, una collaborazione politica con i ragazzi del Motesto, che sono per lo più, diciamo, il Motesto è il movimento territoriale studentesco che si è creato l'anno scorso orientativamente, e si sono, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, per lo più sono ragazzi del liceo Pitagora. Quale cazzo Pitagora? Questo c'è. Pitagora era il classico di Crotone, che è mia città natale, e quindi io penso al classico. I ragazzi del classico di Cosenza invece, che è intitolato al Bernardino nazionale, al Telesio. E i ragazzi hanno raccolto interviste eccetera eccetera, ma di questo ne parleremo dopo. La questione generale è di interesse sicuramente, perché muove perlomeno un sacco di soldi. Mo. E quindi, a proposito di questo discorso dei test, prima abbiamo detto che ci sono dei problemi già da tempo. E di che si tratta? Gli studenti, a maggior ragione appunto adesso con questa anticipazione, sono costretti a prepararsi a questi test che non sono una purpetta specificatamente, sono costretti a prepararsi a questi test durante il periodo scolastico, quindi nel momento in cui in realtà dovrebbero studiare appunto le materie di scuola e prepararsi nel modo migliore, insomma, a questi esami di Stato. E ovviamente questi test non è che è facile prepararseli da soli, per cui la stragrande maggioranza degli studenti che possono permetterselo si rivolge a istituti privati, docenti privati e quant'altro. Addirittura incominciano a prepararsi dal quarto anno di scuola superiore, spendendo veramente delle cifre importanti, importantissime. E insomma, quindi vi faremo vedere nel prossimo stacco quello che è il risultato delle interviste. Abbiamo tagliato un paio per farvi fare due risate, anche per farvi capire quella che è l'intensa attività cerebrale di questi studenti classici seguaci di Telesio. E naturalmente tutto questo dobbiamo ringraziare la nostra musa ispiratrice e il suo lavoro normativo, ovvero sia il decreto del febbraio 2014, 85 appunto 2014. Ciao, e adesso aspettiamo che la nostra DJ ci proponga un brano che sicuramente apprezzerete tantissimo. Me myself and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. It can't be denied, dear, you brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two. Cause me, myself, and I are all in love with you. E adesso, se qualcosa l'abbiamo detto nello stacco precedente e nello specifico volessimo entrare adesso, dovremmo ragionare del generale sicuramente. Comunque, ascoltate le interviste. Questa è un'intervista che i nostri inviati hanno mandato, e c'è anche il signor Mirko Pierno che può darci il suo contributo. Io dovevo chiedere una cartina. Ecco, detto ciò, ascoltate questa intervista. Insomma, no, i testi mi dicono, sono delle delle macchine che rubano soldi. Prima del test, durante il test, dopo il test. Ma poi la selezione si fa lungo 5 anni. Oh no, il mio compagno Malomo mi spiega. Geniale, geniale compagno Romeo, ecco. Ah, io mi dai la batteria. Allora, io penso che... No, non importeremo mai una guerra. Penso che questa cosa sia solo un business creato dalle scuole che fanno queste formazioni per rubare soldi agli studenti. È tutto un giro di soldi per alla fine far partire il consumo. Si spendono 1.000-2.000 euro a test. A test non sono neanche sicuro che... Sintesi e sintassi. Comunque... qualcuno diceva in linea generale qualcosa l'ha detto. I ragazzi diciamo che hanno puntato molto sulla questione del business o del business, come direbbe qualcun altro, il meno anglofono. E salutiamo Mirko che ha trovato diciamo quello che cercava. E intanto io vorrei capire cosa, una sintesi di quelli che sono gli argomenti che sono usciti fuori da questa inchiesta che abbiamo fatto. Per favore, Giovanna, ti prego. Prima dicevamo del fatto dei costi di questa preparazione, ma comunque anche il fatto che gli studenti sono costretti a concentrarsi su altro rispetto a quello che dovrebbe essere il loro percorso, quindi quello di studiare le cose di scuola. Tra l'altro gli argomenti che devono conoscere insomma per fare questi test sono diversissimi dalle cose trattate a scuola e nella maggior parte dei casi non c'entrano nulla, quindi non hanno nemmeno quindi, la possibilità di fare l'uno e l'altro. Babbo, questo. Certamente diciamo che più che sono degli argomenti molto specifici, nel senso che la biologia si studia i primi anni, poi si arriva al quinto anno che se si vuole fare il test di medicina, biologia va a sapere, i mitocondri, i cosi, eccetera, eccetera, che magari in generale l'avevi studiata nei primi anni, però devi riprendere comunque l'intera programmazione fatta in maniera totale. E sicuramente non è un test che si può affrontare così dall'oggi al domani, cioè anche una persona che studia ed è preparata ed è cosciente diciamo della preparazione che ha avuto negli altri 5 anni non riuscirebbe a fare il test di medicina senza riprendere gli studi, perlomeno al minimo. Senza contare l'evidentissima differenza che c'è tra chi si può preparare privatamente e chi no, oggettivamente. Ecco. Questa cosa è anche molti studenti hanno messo l'accento su questo, no? E la differenza è sicuramente quella che possiamo immaginare, nel senso che avere un gruppo di studio che ti segua e durante la preparazione sicuramente aiuta. Il punto è anche che la formazione che si fa nei corsi di Alfa Test oppure quelli che si fanno a Messina, che non ricordo come si chiamano, sono direttamente guarda caso collegati con la scuola di medicina là, comunque sono finalizzati al superamento del test, nel senso che chiaramente non rifai il programma per intero, ma si tratta di fare centinaia e centinaia di test uno presso l'altro e capire quali sono i meccanismi per essere più rapidi e più efficaci di altri proprio nello svolgimento di questo tipo di test. Cioè, questo più o meno è l'impostazione di questi corsi. Quindi, come ha detto qualcuno anche nell'intervista, diciamo che si... favorisce una preparazione quasi televisiva, insomma, no? Da quiz, che è sicuramente lontana dall'idea che abbiamo noi di formazione. Il problema del numero chiuso più in generale è un problema sicuramente delicato. È un problema delicato per il semplice fatto che interseca tante cose. Da una parte l'efficacia lavorativa del percorso di formazione, cioè è chiaro che per esempio molti sostengono la necessità del percorso del numero chiuso a medicina, perché uno che studia medicina alla fine del suo corso di studi non può stare a spasso e da un, da, diciamo, quasi come se si volesse affrontare per questi settori una interpretazione, una pianificazione, insomma, della pianificazione dell'offerta lavorativa, cioè, sembra qualcosa che è legata ad altri scenari sociali, no? Cioè, ho bisogno di 600 medici e allora faccio 600 medici, ho bisogno di 1000 ingegneri e allora faccio 1000 ingegneri. Questa cosa certo è un lato della è una faccia della medaglia, dall'altra c'è anche la necessità di determinati gruppi, che siano medici piuttosto che architetti, piuttosto che altri, di non inflazionare la loro categoria, come è successo per quella degli ingegneri, che non è riuscita evidentemente a fare le pressioni giuste per blindare l'ingresso di orde e orde di gente che non aveva nulla a che spartire, insomma, con le famiglie rinomate dell'ingegneria, e di conseguenza ad oggi pensano di mettere un numero chiuso per l'ingresso all'ordine e quindi per la possibilità lavorativa. Perché? Perché le parcelle si stanno passando, perché essendoci tanti ingegneri che c'è, cioè, da 100, 200 in Calabria siamo passati a 10.000, insomma, a meno, queste erano le cifre se non mi sbaglio, ma forse, e sta succedendo questo, che gente magari è disposto a prendere un lavoro anche per meno pur di poter lavorare, e quindi c'è questo. Poi c'è un altro aspetto che abbiamo mostrato anche nell'intervista, che è quello della chiusura in generale del sistema universitario, nel senso che negli ultimi 15 anni il sistema universitario, tra aumento delle tasse, tra riduzione dei posti, tra inserimento di numeri chiusi all'ingresso e restringimento di questi, nel panorama complessivo sembra che questa manovra vada ad acuire ulteriormente, diciamo, il restringimento delle possibilità di istruzione pubblica in qualche modo. Il problema sicuramente è un problema complicato. Quello che non si capisce è per quale motivo non ci sia più o meno una discussione aperta su questo. Per esempio, un numero blindato sì, un numero blindato no, c'era il preside Iaconiano, Iaconiano con le M mefistofeliche, che diceva che preferirebbe che gli studenti fossero lasciati in pace a fare il loro ruolo di studenti di scuola secondaria, e per poi essere selezionati in itinere durante i 5 anni. E lui parlava, chi ha la media del 27 continua, chi no. Il punto è che anche quello è un problema, nel senso che la media del 27 spesso è legata a situazioni economiche favorevoli, nel senso che se io ho, ma non è nemmeno, cioè io andrei oltre anche la questione economica, nel senso che la questione economica favorevole sicuramente è una base di partenza superiore. E volevi dire? Sicuramente influisce pure questo fatto della condizione economica, perché se uno deve lavorare ovviamente può studiare di meno e prendere voti più bassi, no, di un altro che tutto il giorno può studiare, farsi i cavoli suoi. Detto questo, tutto questo, c'è anche diciamo una questione personale, nel senso che a fianco alla tranquillità economica spesso si accompagna la tranquillità psicologica, chiamiamola così, E quindi sicuramente risulterà lo stesso modo avvantaggiato chi fa parte di un determinato contesto economico, sociale, piuttosto che chi magari ha già lo studio di avvocati avviato, piuttosto che del figlio del medico, eccetera, eccetera. E quindi riconosciamo la complessità dell'argomento e sicuramente pensiamo che in questo momento l'anticipo dei test sia una in qualche modo perlomeno un qualcosa che va ad aggravare ulteriormente la situazione. Sì, perché perlomeno mette l'istruzione secondaria in una condizione di subordinazione rispetto all'istruzione, all'alta formazione. E dall'altra costringe, perché di fatto, come abbiamo detto, tutti quanti devono studiare per fare questi test. Cioè, a meno che usi proprio Einstein, ma sinceramente gli Einstein non è che se ne vedono molti e o hanno fatto manco tante belle cose, se ci pensiamo. Fukushima, cose di scimmia, chiaro. Comunque, al di là di questo, bisogna studiare per fare questi test. Se io devo studiare durante la mia preparazione secondaria, sicuramente la mia preparazione secondaria ne risentirà. Questo è un dato. Questo è un dato che è stato percepito da tutti. Così come per andare a sostenere i test io mi devo spostare, quindi perdere comunque ore di lezione, pagarmi il viaggio, un'altra piccola. E quindi sembrerebbe, e questo è sicuramente, noi lo possiamo dire forte e chiaro, nel senso che quello che è certo che è un ennesimo bastone tra le ruote degli studenti, è l'ennesimo bastone infilato tra le ruote del percorso formativo degli studenti, un altro ostacolo da superare, e che in questa situazione sicuramente non era quello di cui avevamo bisogno. Tu cosa ne pensi? A parte che dovremmo tagliare i silenzi, ma a parte questo. Ma ce lo metti un pezzo dopo? Verso che genere vorresti andare? Ma vediamo che offre la zona. Ok. Quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni. Nel sentirle ti meraviglierai che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai e che avesti nel tempo passato. Ma non ti servirà il ricordo, non ti servirà che per piangere il tuo rifiuto del mio amor che non tornerà. Ma non ti servirà più a niente, non ti servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Vola il tempo, lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo. E per questo ti dico, amore, amore, io t'attenderò ogni sera, ma tu vieni, non aspettare ancora, vieni adesso finché è primavera. È il risultato di un felicissimo lavoro fatto dalla London Symphony Orchestra in collaborazione con la Fondazione De André, in cui sentiamo, diciamo, cantare due cantautori, uno vecchio e uno nuovo, Capossela e De André, diciamo una macchina del tempo un po' musicale, una cosa che a volte entusiasma, ecco. Detto ciò, andiamo al prossimo argomento. Il prossimo argomento è un altro lavoro che si sta facendo invece completamente all'università, cercando di interagire con altri gruppi che ci stanno, ed è un lavoro sulla didattica unicalense e non solo, e dintorni, diciamo così, diciamo anche sulla scia, sull'onda lunga del lavoro che abbiamo fatto con il Motesto. Abbiamo immaginato di iniziare a mettere l'accento sulla questione didattica utilizzando anche lo strumento della videoinchiesta. La necessità nasce da cosa? La necessità nasce da un provvedimento che, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, in cui c'è un provvedimento, era un verbale del Senato Accademico del 21 gennaio, in cui il Senato Accademico appunto ha messo come orizzonte definitivo, insomma, per la didattica il 2015, gennaio 2015. Cosa vuol dire? Vuol dire che per quest'anno non succede nulla, lo avevamo spiegato anche l'altra volta, ma nel gennaio del 2015, cioè, meglio, si inizia un percorso che per il momento sembra fatto, diciamo, di sotterfugi, sicuramente non partecipato e pubblico, che porterà poi al gennaio 2015 nella ridefinizione delle RAD, che ho scoperto più o meno che sono rapporti annuali di didattica. Questo dopo varie indagini, esattamente. Questo secondo noi deve essere prioritario nell'operato, diciamo, del collettivo, ovvero sia mettere al centro della discussione universitaria pubblica appunto la questione della didattica e soprattutto le necessità degli studenti. Le necessità degli studenti cercheremo di farle emergere anche con la videoinchiesta di cui parleremo nel prossimo stacco. Vi dirò di più, di cui parlerà Giovanna nell'ultimo stacco. Sappiatelo, questo lo sto dicendo al popolo tutto. E adesso sentitevi Gualazzi. Up on that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. Looked into your eyes, and they should make me feel so bright, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. It's strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never felt, that's why my soul I never sell. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. Pensavo che ancora stanno andando per i primi. Come ci diceva prima Gustavo, cambiano parecchie cose per gennaio 2015 e noi vogliamo arrivarci preparati, vogliamo che gli studenti lo sappiano e che esca fuori in modo forte quello che loro pensano a proposito dell'Università della Calabria, quello che loro vorrebbero che cambiasse. Tant'è che in questi giorni stiamo allegramente andando in giro per il ponte, armati di telecamera, e chiedendo agli studenti volenterosi, insomma, che cosa ne pensano un po'. Frigo. Sì, gli studenti volenterosi, appunto, perché abbiamo scoperto che c'è molta gente invece che all'università non vuole. Questo è un appello a tutti gli studenti, parlate perché è importante, perché non è giusto che ci mette la faccia, sono molto entusiasta del fatto che stanno facendo un casino di botto microfono. Comunque tutti quanti dobbiamo parlare, dobbiamo far uscire la nostra voce. Ah, giusto questo, continuo. Però quelli che parlavano, devo dire che erano belli, belli carichi. E quindi gli chiedevamo comunque il loro parere a proposito non solo dell'organizzazione banalmente del loro corso di studi, oppure anche semplicemente il fatto che se tu ti vai a lezione, ti presenti in orario e poi devi aspettare il professore un'ora, oppure quello ti rimanda l'esame all'ultimo momento, insomma una serie di cose che purtroppo capitano quotidianamente. Ma a prescindere da questo, soprattutto se ritengono che la formazione che ci dà l'Università della Calabria, quindi facoltà, percorso di studi, sia in realtà aderente a quelle che sono le esigenze del territorio. Addirittura, insomma, il nostro manifesto titola per una formazione che c'è un nostro manifesto che sta uscendo adesso con il SEF, titola per una formazione che dia un futuro sostenibile al nostro territorio. E quindi se comunque è possibile trovare degli sbocchi lavorativi, cioè ti laurei e sei costretto a scappare, oppure hai modo di fare qualcosa nella tua terra e per la tua terra volendo, e la risposta purtroppo nella maggior parte dei casi è no, me ne scappo, cioè arrivederci a tutti e ci si vede. Forse in qualche modo questo ci dà anche la risposta, diciamo, ai grandi quesiti esistenziali che mi ponevamo poc'anzi sul numero chiuso, cioè nel senso che se è il territorio a dare la cifra, poi quanti lavoreranno in quel settore, si può fare una divisione tranquillamente, cioè quanto su, abbiamo bisogno di 500 ore, voi siete 2000 persone, va bene, lavorerete un quarto d'ora ciascuno, cioè. Sì, questa qua è tutta colpa mia, sto mettendo in difficoltà Giovanna, questo lo sto facendo proprio appositamente. No, parlavamo del territorio, del fatto che... Parlavamo del territorio, grazie a Gustavo che continua imperterrito questa cosa, vabbè. E dunque, diciamo, la maggior parte delle persone dicono che se ne vanno. Ma, per esempio, anche ci parlano anche spesso e volentieri delle borse di studio, quindi di questa triste figura dell'idoneo non beneficiario e... C'era una ragazza addirittura ci diceva: guarda, dimmi non idoneo, non mi dire idoneo, non beneficiario, perché lì mi viene veramente la tristezza. Abbiamo altri argomenti sul generale, perché praticamente per intenderci, l'inchiesta è costruita in due scaglioni, chiamiamolo così, nel senso che c'è una parte generale, appunto, che parla di ricaduta, di cosa significa essere fuori corso, di borse di studio. Di quali insegnamenti gli studenti che intervistiamo cambierebbero del loro percorso formativo, nel senso si sentono in grado di prendere in mano il destino della loro formazione? Questo è il grande quesito a cui cerchiamo di rispondere. Dall'altra ci sono delle questioni specifiche, chiamiamole territoriali, nel senso dipartimentali o addirittura di corsi di laurea specifici, su cui che stanno emergendo dall'intervista generale e che su cui abbiamo intenzione di porre l'accento in maniera particolare. C'è un lavoro che molto probabilmente uscirà a firma doppia ISF P2 sul rapporto tra l'ingegneria e il ciclo dei rifiuti, piuttosto che quello che succede ad archeologia, per esempio, cioè i nostri archeologi non hanno a parte nessuna peculiarità territoriale, o perlomeno si diceva, qualcuno lamentava delle ingerenze, diciamo, metafisiche da questo punto di vista, e poi un corso di studi che prende esami di biblioteconomia a 15 crediti e non mette altri esami invece magari sugli scavi o qualcosa che potrebbe essere molto più formativa ed utile per il loro percorso di formazione. Abbiamo l'esempio di scienze dell'educazione, c'è stata un'assemblea poco tempo fa in cui sono state espresse delle cose, anche su quelle magari si potrebbe approfondire. Abbiamo un esponente di scienze dell'educazione che mi guarda stranita ogni volta che cerco di dirigere, stranita e con odio, cerco di dirigere il microfono verso di lei. Comunque, questo è quanto, e cercheremo sicuramente delle collaborazioni in questo, cioè c'è già in atto questa qua con Ingegneri Senza Frontiere per quanto riguarda la questione di ingegneria e l'ingegneria ambientale, diciamo così, sostanzialmente. E dall'altra ci sono i ragazzi di fisica con cui abbiamo già iniziato una collaborazione in questo momento. Vogliamo diano anche il loro contributo su questo, da questo punto di vista. Se poi ne verranno altri, venghino, signori, venghino, come disse uno, semplicemente uno. Intanto ascoltate il sottofondo di Tiger Lilies, belle, no? Ve li propongo, che sono gente, insomma, con i cazzi. Detto ciò, o con le ovali, che poi l'analogia tra cazzo e ovaie non è proprio bionico, comunque a parte le mie riflessioni, dopo 7 minuti di stacco, signore e signori, l'ultimo brano, dopodiché i saluti, dopodiché i ciao, dopodiché la sigla, buonanotte Arsecchio e tutto Scardabagno. Ciao ciao. Abbiamo finito la puntata, è stato bellissimo. Grazie, ti ringraziamo. E noi vi invitiamo a